Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, le scuole sono riaperte ormai in tutta Italia e quindi diciamo buon anno in bocca al lupo a studenti ed insegnanti, e vi segnalo in questa occasione qualche titolo di ambientazione scolastica, anche perché tutti scritti da insegnanti. Il primo è di Livio Romano, che insegna inglese in una scuola elementare della Puglia, ma è anche narratore. Il suo libro si intitola Diario Elementare, pubblicato da Fernandel, 182 pagine, 13 euro. Ironica la copertina, con un ciuco che ci guarda, nemmeno troppo preoccupato. Il contenuto sintetizza un anno scolastico in una scuola elementare del sud, appunto, da parte di un insegnante appassionato che appartiene a una dinastia di insegnanti e che è capace di fotografare tanto i grandi problemi del mondo della scuola quanto i tic quotidiani degli insegnanti, degli allievi e delle famiglie. Naturalmente nel libro c'è un grande spazio per il forsennato, continuo e spesso cervellotico rinnovamento, o magari per molti involuzione del sistema scolastico, sul quale Romano non lesina stoccate. Ma molte pagine sono dedicate anche al rapporto tra la scuola e la società, alle aspettative, alle speranze che la scuola suscita oggi nella società e nelle famiglie. Ma sentiamo su questo l'autore. Buongiorno a Livio Romano. Buongiorno a voi, buongiorno. Livio Romano, lei comincia nelle prime pagine del suo libro a denunciare il linguaggio del nuovo, scrive, che verso la fine del secolo scorso si è abbattuto sulla scuola italiana, ci si sente moderni a usarlo all'avanguardia. Che quali sono state le conseguenze di questa modernità solo semantica, lessicale, anzi meglio? Sì, a questi nuovi gingilli semantici corrisponde una filosofia anche diversa, che è la filosofia del accalappiare utenza, come la chiamano i nuovi burocrati, accalappiare quanto più utenza possibile, perché se no si iscrivono in altre scuole molto semplicemente. E quindi è tutta una corsa a chi esibisce l'offerta formativa più gradevole, insomma, spesso dimenticando invece quali sono gli obiettivi principali della scuola elementare. E infatti lei poi poco più avanti scrive: davvero pochi danno spazio ai bambini, al loro lavoro, alle loro esperienze, alle emozioni, al gusto per la ricerca, e tantomeno chi sono i maestri, come lavorano, che facciano, quali numeri gli riescono meglio nello show quotidiano incantato dell'insegnare. Quindi una denuncia, diciamo, di questo metodo che lei scrive sta portando agli sfrittellamenti dei cervelli piccini. Sì, lo prendo in prestito dalla Mastrocola, è quasi proverbiale ormai. Sì, ne sono assolutamente convinto. Per quanto iscrivere un bambino di scuola elementare che inizia la prima elementare, assicurarsi che sia iscritto presso una maestra, perché ormai di questo si parla, non c'è più il team del modulo di una volta, brava e che abbia fama di essere brava, rimane comunque nelle aspirazioni dei genitori e nelle richieste che fanno all'inizio dell'anno. Però insieme con tutto questo poi c'è tutto questo judo, corsi di teatro, corsi di musica, corsi, anche proprio le cose più di vibrafono, insomma veramente le cose anche più incredibili, proprio per attirare l'utenza, come continuano a chiamarla, e per farsi concorrenza. Ecco, il gergo dell'aziendalizzazione della scuola risponde a questo principio di concorrenza che non dovrebbe proprio esistere nella formazione pubblica della Repubblica Italiana. Lei scrive anche che l'ideologia dominante oggi nella scuola è psicologia sociale and computer, non c'è scampo. Quindi una rivoluzione che però sta portando dei risultati contraddittori, secondo il suo libro. Sì, questo lo scrivo un po' da un punto di vista della formazione continua che ricevono gli insegnanti. Questo è un punto al quale tengo moltissimo e che cerco di argomentare in maniera approfondita in questo piccolo pamphlet. Nel senso che il computer, intanto non so se si ricorda le famose 3 I della Moratti, informatica, inglese, cioè, allora informatica è stata per anni e continua ad esserlo uno dei feticci sui quali puntare nell'offerta formativa, ma quello che dico io è quello che dicono gli americani da 30 anni, trash in, trash out. Se continuiamo a non capire cosa inserire nei file che apriamo, inevitabilmente ne verrà fuori spazzatura. Dove voglio parare? Voglio parare esattamente nei contenuti. Allora, saper usare un computer molto bene, oppure, nel caso della psicologia sociale, continuare a frequentare questi corsi in cui ci si dice che bisogna essere empatici, bisogna coltivare la cosiddetta comunicazione efficace, tutta quest'aria fritta di cui gli insegnanti veramente non ne possono più, secondo me non serve assolutamente a nulla. A Allora, quello che dico io invece è che insegnare viene dal latino, insegnare, lasciare un segno. Ora, tu lasci un segno in quanto sei una brava persona, ma soprattutto una persona interessante. Allora, sarò un catorcio del vecchio secolo, ma per me una persona interessante viene costruita soltanto dalla cultura. Allora, diamo agli insegnanti, gli insegnanti che si sono formati negli anni 60, perché il corpo docente italiano è veramente ha un'età media di 50-55 anni e che hanno spesso soltanto il diploma magistrale. Allora, invece di puntare a queste sciocchezze della psicologia sociale, della comunicazione, dello stare bene insieme, del sapere usare Excel, eccetera, facciamo direttamente dei corsi. Io faccio un esempio nel mio counseling. Sento spesso le maestre di scienze citare questo famoso DNA. Ora, io ho fatto lo scientifico, al limite potrei avere anche qualche idea un po' più concreta di cosa sia il DNA, ma far frequentare loro un corso che parli esattamente di quello, e voglio dire proprio entrare nei contenuti, anche se non servono immediatamente nell'insegnamento quotidiano, anche una conferenza su Wittgenstein, anche guardare un film d'autore degli anni 70 di un autore ungherese, ecco, tutto questo serve a rendere le persone migliori, a farle crescere. Inevitabilmente questo andrà a finire nell'insegnamento, non subito, non immediatamente, non il giorno dopo, ma prima o poi, coltivandolo giorno per giorno, cioè nel senso della scuola proprio come cellula culturale che aiuti gli insegnanti stessi a crescere, per primi loro. Ecco, su questo lei per esempio parla di un altro processo che è in corso nella scuola italiana, cioè quello della burocratizzazione, parla proprio degli insegnanti, indica una specie di sindrome di Norimberga, perché dice che c'è un gusto per questo burocratismo nella scuola. Lei scrive: scorgo proprio un piacere fisico nel maneggiare le cartacce da parte di molti suoi insegnanti, di molti suoi colleghi, scusi. Ci scherzo un po', insomma faccio un po' di ironia, in molte scuole vige invece il motto contrario. Meno carte possibile, ormai insomma fare i registri su un supporto digitale abbastanza diffuso, no? Però noto che proprio hanno, sì, lo racconto con naturalmente con affettuosa ironia, noto questo redigere queste cartacce che poi ci viene dal comportamentismo americano sostanzialmente. Prefigurare un obiettivo e aspettarsi un tale risultato, e allora redigere tutta sta roba qua, i verbali come li chiamano, parole oscene quali collazione, che è una parola giuridica, io ho studiato giurisprudenza e quindi mi fa molto ridere sentirla dire a scuola, cioè proprio le vedo che sono molto contente di farlo, di sbarrare, di firmare, di controfirmare, di timbrare. Ora tutto questo cosa ha a che fare con l'insegnare, con il lasciare un segno? Assolutamente nulla. Ecco, poi nel suo libro ci sono delle pagine abbastanza acuminate contro le famiglie o certe famiglie, per esempio c'è la descrizione molto efficace del saggio natalizio in cui le bambine diventano delle lolite proprio perché le madri le vogliono così. Sì, è un pamphlet anche un po' di costume, insomma, è un po' una cosa di mezzo, no? Come tutti i libretti satirici. Sì, io noto queste mamme fra i 30 e i 40 anni che quando c'è il saggio con la S maiuscola sono veramente felicissime, vanno in giro per tutta la città a cercare il nastro giusto, è come se tutto finisse lì, come se vedere le loro figliole esibirsi fosse, beh, questa insomma poi è l'ideologia dominante. D'altro canto, se noi apriamo i vari canali digitali dedicati a quella fascia di età, lo vedo dalle mie figlie, io ho tre figlie, non fanno altro che bombardarle del concetto sii famoso, sii famosa, sii quanto più carina possibile. Allora dare la possibilità ad una mamma di rendere la figlia il più carina possibile, seppur per un piccolo saggio che dura due ore con i genitori lì annoiati, soprattutto i papà che devono filmare e tutto quello che a tutti i genitori capita di dover fare, è l'apoteosi del narcisismo. Grazie a Livio Romano, autore di Diario Elementare. Buona domenica. Un'altra testimonianza dalla scuola è quella di Alex Corlazzoli, giornalista e maestro precario, nel libro La scuola che resiste, pubblicato da Chiare Lettere, 160 pagine, 13 euro. Collazzoli è un maestro politicamente molto corretto che insegna anche attraverso il subcomandante Marcos e indirizza i suoi studenti a diventare ecocittadini con una grande dose di passione e partecipazione verso il proprio lavoro e i propri datori di lavoro, come egli chiama i bambini. E parla qui delle proprie esperienze e tante altre esperienze di difesa della scuola pubblica e anche di molti esperimenti alternativi che si stanno sviluppando come l'homeschooling, la scuola familiare. La scuola, ma questa è una scuola superiore, può essere anche palcoscenico per un noir come quello di Gianmarco Perboni, che è anch'egli insegnante, intitolato il libro Una scuola come tutte le altre, pubblicato da Rizzoli, 300 pagine, 15 euro. Divertente l'inizio con i professori di un liceo che scoprono che uno di loro, la voce narrante del libro, è un traduttore. Da lì immaginano di poter, attraverso il proprio collega, inondare le case editrici dei propri parti letterari, tormentando il povero protagonista. Ma all'improvviso avviene il delitto che permette di scavare ancora in profondità il mondo della scuola, in questo caso di una città di provincia, in un liceo scientifico necessariamente frequentato perché l'unico della cittadina dalla buona borghesia locale che a tutto pensa tranne che a studiare. E a questo punto... Il confettino. Visto l'argomento, un libro per bambini dal titolo esplicito Non voglio andare a scuola di Stephanie Blake, tradotto al francese da Federica Rocca, per Babalibri 5,80 €. Questo è il libro di un coniglietto che appunto a scuola non ci vorrebbe proprio andare, ma cambierà rapidamente idea quando comincia la sua esperienza e potrà dunque convincere i suoi giovani lettori alle prese con l'inizio del nuovo anno scolastico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubbe, ricominciamo con un grande scrittore italiano, Alberto Arbasino, che ha pubblicato Pensieri selvaggi a Buenos Aires, è pubblicato da Delphi, 126 pagine, 10 euro. Questo è un divertissement, lo spietato osservatore, che rievoca le sue esperienze in Sud America, in particolare in Argentina, conosciuta in anni ruggenti. Ma non c'è solo Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, San Paolo, Lima, queste sono le città colte da Arbasino, città che, scrive, traboccavano di joie de vivre e di ricchezza una volta ed esportavano tutto un tripudio di luci e suoni e colori, lusso e voluttà, antropologia culturale festosa e fastosa ed assai pittoresca, basata sulle fortune svelte degli emigranti, oltre che sugli sfruttamenti amazzonici e andini. Lo stile di Arbasino è quello inconfondibile, con flash continui, intrecci col presente e anche con l'Italia, come conferma questa divertente incursione dello scrittore nella toponomastica di Roma che adesso vi propongo. Allucinanti moltiplicazioni e contaminazioni di ziggurat piramidali a gradoni, ove tutto appare sfalsato negli assi orizzontali e verticali e asimmetrici. Ecco la via Carlo Emilio Gadda. Con gli effetti ambientali e acustici già contemplati da quel sommo ingegnere, quando sugli spurghi degli sciacquoni ancora non si aggravavano gli scarichi degli stereo nei cartongessi. Altro cul-de-sac, con accesso in comune al piazzale cimorante, tipo vasto e deserto parcheggio camion, dalla rotatoria e montale recintata e diffidata archeologicamente da una sovrintendenza come l'attigua Piazza Gipio Vene, fra i viali C. Levi e F.T. Marinetti, con opere di urbanizzazione primaria abbandonate. Sotto il parallelo e civettuolo vialetto Guido da Verona, improvvisamente sovrastante al vasto e ramificato viale Isilone, che fra Pratolini e Pea si spinge fra molte impietà paesistiche fin quasi alla città militare. Zona uffici in largo Ungaretti, deposito di cassonetti in largo Buzzati, palazzoni su Cilinati e Cisbarbaro ostendono targhe aziendali con pericolo di morte. Dequalificati appaiono campane e brancati e bontempelli, accomunati nei vicoletti a Ilunga Kids e risicati spazi fra le facciate e fiancate e i ponteggi per ogni manovrina d'auto, come nei litigiosi garage condominiali. Ma cessati i casermoni da incubo, ecco lunghi tortuosi serpentoni tagliati da doppie corsie, attraverso le coltivazioni dirette e le cascine frananti, nella solita campagna laziale, tra vastità inopinate nel vialone di Pavese, nelle curve di Quasimodo e Tomasi di Lampedusa, nel rettilineo ancora di C. Levi, per cui si rientra finalmente nella C. Colombo. E conclude il libro un'intervista al grandissimo Jorge Luis Borges, nella quale Arbasino riesce a far dire allo scrittore argentino, per esempio, come nascesse in lui l'ispirazione a scrivere. Scrive Borges che tutto nasceva dal sogno, come del resto era successo a Stevenson. Mi ricordo di un caso famoso, scrive lo scrittore argentino. Stevenson ha sognato la scena centrale in cui il dottor Jekyll diventa Mr. Hyde e poi ha dovuto inventare tutto il resto. Ed è la sua ragione, evidentemente, che ha fatto tutto. E a proposito di Stevenson, esce una nuova edizione di uno dei suoi capolavori, il Master di Ballantrae, è pubblicato da Nutrimenti, 318 pagine, 18 euro, con la nuova traduzione di Simone Barillari e le illustrazioni di William Brassey Hall, con le immagini che accompagnarono la prima edizione del libro nel 1889. Questo di Stevenson è un romanzo singolare sull'ostinata guerra tra due fratelli di una nobile famiglia scozzese che si avvia nel Settecento, appunto in Scozia, e approderà poi al Nuovo Mondo e sui grandi laghi degli Stati Uniti. E su Stevenson vi segnalo un'operazione che riguarda anche un altro grande scrittore, ossia un libro che trae spunto in qualche misura continua un capolavoro. In questo caso è Il ritorno all'isola del tesoro di Andrew Motion, che è un poeta laureato addirittura inglese, pubblicato da Rizzoli, 432 pagine, 17 euro, tradotto da Michele Mari. Qui una seconda generazione, cioè i figli dei protagonisti dell'avventura di Stevenson, torneranno nell'isola del tesoro, attratti da un carico d'argento, e da lì naturalmente nasceranno delle avventure determinate soprattutto dalla sorpresa iniziale, quella che l'isola non è più disabitata. L'altro grande scrittore coinvolto in questa esercitazione è Saint-Exupéry. Lo scrittore argentino A.G. Römers, che è scrittore e industriale, pubblica un sequel del Piccolo Principe, Il ritorno del giovane principe, pubblicato da Corbaccio, 118 pagine e 9,90 euro, ed è tradotto da Claudia Marseguerra. Una giovane e misteriosa creatura, questa volta piombata in Patagonia, ripropone il candore del mitico personaggio di Saint-Exupéry, un personaggio in questo caso che aiuta il narratore a superare tanti pregiudizi di cui magari non era consapevole. Dopo quell'incontro, scrive infatti l'autore, ogni volta che sorrido o posso mostrarmi gentile con un'altra persona è come se si formasse un'onda, e se la persona che ho aiutato porge la sua mano o sorride un'altra, diventiamo una marea capace di arrivare dovunque. Vi ricordo gli originali di queste opere. L'isola del tesoro di Stevenson, ce ne sono delle nuove edizioni pubblicate da Rizzoli 9,90 euro, da Carte Duca 11,90 euro, da Mondadori a 9,50 euro, da Principi e Principi a 18 euro, e del Piccolo Principe c'è la versione di Fabbri 7,50 euro. Concludo con un'altra scrittrice italiana contemporanea, Sveva Casati Modignani, che ha pubblicato con Mondadori Il diavolo e la rossumata, 172 pagine, 14,90 euro. Questa è un'autobiografia della nota scrittrice che mescola due generi, quello appunto dell'autobiografia e quella dei libri dedicati al cibo. Si parte quindi dagli anni dello sfollamento della famiglia di Casati Modignani da Milano durante la Seconda Guerra Mondiale, e da qui la scrittrice racconta una serie di episodi e ci porge una serie di ritratti sulla propria infanzia, un racconto segnato anche dal ricordo di cibi e di sapori, di cui poi la scrittrice ci offre un catalogo attraverso tante ricette descritte puntualmente e commentate letterariamente. A proposito, la rossumata alla quale fa riferimento il titolo è una crema corroborante a base di uovo e barbera che all'autrice piace molto. E quindi, vista l'ora, buon pranzo a tutti. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un libro musicale che riguarda John Coltrane, Coltrane secondo Coltrane, pubblicato da EDT, curato da Chris De Vito, che ha raccolto tutte le interviste del grande sassofonista morto nel 1967, 338 pagine, 20 euro, la traduzione curata da Francesco Martinelli. Poi vi segnalo il libro di un grande scrittore russo emigrato negli Stati Uniti, cioè Vladimir Nabokov, di cui Adelphi sta ripubblicando le opere. L'ultimo titolo è Guarda gli Arlecchini, 294 pagine, 19 euro, tradotto da Franca Pece. Questa è una beffarda autobiografia sotto forma di romanzo che sembra evocare i tratti dell'autore. Si parla infatti di uno scrittore russo candidato al Nobel, fuggito dopo la rivoluzione bolscevica e che vive in esilio. E infine vi segnalo di Jan Michalessin, che è inviato di guerra oggi per Il Giornale, Afghanistan solo andata, storia dei soldati italiani caduti nel paese degli Aquiloni, Cairo, 254 pagine, 15 euro. L'autore è un grande esperto di Afghanistan che frequenta dal 1983, su quel fronte sono ora impegnati molti soldati italiani, tra i quali purtroppo ci sono stati tanti caduti, 50, di cui qui l'autore ci ricorda e ci racconta con sobrietà le storie.